Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ti senti di dire qualcosa ai tifosi di Milan? Assicurargli che il tuo futuro sarà con il Milan? Ma lo so, io sono legato al Milan, poi ci penserà il mio procuratore a tutti i resti. Sono legato al Milan. Ah sì, sono milanista e spero di restare... Deve essere a Milano, ma come ho detto ci penserà il mio procuratore. Dopo l'incontro che ho avuto fino a pochi minuti fa con l'agente del giocatore Mino Raiola, che mi ha comunicato la decisione del giocatore di non rinnovare il suo contratto con il Milan. È una decisione definitiva presa dal giocatore. Ricordo a beneficio di tutti che una decina di giorni fa il direttore sportivo Mirabelli aveva sottoposto un'offerta di rinnovo contrattuale che noi riteniamo molto importante al giocatore, anche più importante di quello che è comparso sui vari giornali e sulle varie testate. Il giocatore l'ha valutata, ovviamente ha fatto delle valutazioni di carattere non solo economico ma anche tecnico e personale, ha preferito non accettarla. Quando il presidente Pellegrini mi mise davanti una segna in bianco dicendo metti il doppio dello stipendio e vieni all'Inter, dissi di no. Ho baciato la maglia, però l'ho rispettata fino all'ultimo giorno. Ogni giocatore abbia ambizione di giocare nella squadra più forte del mondo, il Milan in questo momento non lo è, probabilmente non è nei primi 10. Il dibattito è aperto, è apertissimo da ieri pomeriggio alle 17:17, il giorno, l'ora, il momento in cui è finita la storia tra Donnarumma e il Milan. 800 24 00 24, siamo qui fino alle 15:30, parliamo anche di altro, abbiamo grandissimi ospiti, oggi c'è Stefano Vecchi, campione d'Italia con la primavera con l'Inter, c'è il direttore generale del Sassuolo Carnevali, c'è Racing Team, parliamo anche del caso Ronaldo incredibile che sta esplodendo dopo le 15. Però evidentemente tutto porta a Donnarumma. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666, sms, whatsapp. Dibattito aperto, oggi è chi considera Donnarumma uno che ha tradito e che ha sbagliato scelta, contro quelli che pensano che sono tutti ipocriti e che invece hanno ragione Raiola e Donnarumma, e chi dice che deve andare a guadagnare il più possibile, quindi sono ipocriti quelli che parlano ancora di tradimento e di calcio, come si intendeva il calcio, quello delle bandiere, fino a un po' di tempo fa. 800 24 00 24, Sandro Sabatini da Premium, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Guarda, ti leggo questa mail che ci è arrivata questa mattina. Io voglio tutti i Giorgio Malaguti del mondo qui, convocati. Salve, per me Donnarumma ha fatto bene, siamo tutti ipocriti. Ma se nel mio lavoro mi offrissero di andare nella miglior ditta al mondo con stipendio raddoppiato, non esiterei un attimo. L'errore l'ha fatto Gagliani, che poteva esercitare il rinnovo visto la minore età. Grande Gigio, Raiola non può passare da grande per l'operazione Pogba e da mercenario per Gigio. Fa solo il suo lavoro al meglio. Io non so come la pensi tu, io come l'ho detto, come la penso, l'ho detto da lunedì, insomma, e sì, sono so. Per i traditori. Tu, Sandro? Ma io, la mia è una posizione molto impopolare, considerato quello che pensano tutti i tifosi milanisti e quello che dicono anche giustamente i ragazzi, i lavoratori che fanno fatica ad arrivare al 27 del mese, perché i soldi, anche 5 milioni, agli occhi di tutti naturalmente sono tantissimi, un'esagerazione, ci metti a posto le generazioni con 5 milioni all'anno con la carriera davanti di Donnarumma. Però io faccio un discorso che mi fa piacere fare qui a Radio 24, che è, diciamo, economico e finanziario. Quando un giocatore viene considerato un valore da 100 milioni e Donnarumma sul mercato internazionale è uno che, se fosse sotto contratto al 18 anni adesso, lo venderebbe 100 milioni, varrebbe quella cifra lì. Ecco, varrebbe quella cifra lì, guardate che i parametri dello stipendio vanno adeguati a quella cifra lì, a quella valutazione lì. Faccio un esempio, supponiamo, prendiamo Andrea Conti, il Milan lo tratta e lo vuole pagare 20-25 milioni. Ho letto sui giornali che la proposta di ingaggio è 22 milioni all'anno. In pratica, di fatto, con i ventenni o con i giocatori che sono commercializzabili, tu devi dare loro uno stipendio che è un decimo del valore. Quindi questi Milan dovrebbe offrirgli 10 milioni di euro, mi stai ora, dicendo? Giovanni, non esageriamo, perché poi ci sono le formule, ci sono le clausole, ci sono tanti modi, e poi io sto facendo un discorso che ovviamente non tiene conto del bacio, della maglia, della riconoscenza, eccetera, eccetera. Io sto semplicemente dicendo che è vero, il popolo milanista si rivolta, però parliamoci chiaro. Io mi metto anche nei panni di Donnarumma, anzi mi metto nei panni di Raiola. Donnarumma sono 2 anni che gioca gratis per il Milan. Sì, ma non per colpa del Milan, non per colpa del Milan, per colpa delle stesse regole che oggi strappano Donnarumma al Milan. Sì, sì, sì, ma come tu hai beneficiato di queste regole, ci sono i diritti e doveri, ci sono i pro e i contro, come ogni regola. Poi io so di avere una posizione impopolare, ma io la farei questo discorso anche per qualsiasi altro giocatore, per qualsiasi altra squadra. Cioè, Messi è attaccato al Barcellona, ma fin da piccolo, fin da giovane, ha guadagnato i soldi da Messi. Cristiano Ronaldo, quando passò dallo Sporting Lisbona al Manchester United, iniziò a guadagnare i soldi che poi avrebbe meritato nel corso anche di tutta la carriera. Cioè, Donnarumma ha una... lasciate stare Gigio Donnarumma, la maglia... Ma Gigio non esiste più, da ieri ore 17:17 Gigio non esiste più. Il numero uno dei portieri in questo momento al mondo, il numero uno dei portieri al mondo, che vuole un ingaggio da numero uno dei portieri al mondo. Se poi mi dite Donnarumma non è il numero uno, allora si apre tutta un'altra discussione. Ma finora l'abbiamo, l'avete, l'hanno trattato tutti da numero uno al mondo. Sì, io penso, Sandro, che in realtà Mino Raiola e Donnarumma, anzi Donnarumma e Mino Raiola, perché poi l'ultima parola l'ha detta Donnarumma, che è un diciottenne, quindi come tutti si assume la responsabilità delle sue legittime scelte, abbiano commesso l'errore di non pensare che a 18 anni, anche se sei potenzialmente fortissimo, tu abbia bisogno di crescere in un ambiente protetto, cosa che da ieri 17:17 non esiste più, ma lo vedremo già domenica sera. Io auguro all'Italia Under 21 di essere perfetta e di vincere l'Europeo, auguro a Donnarumma di essere perfetto, perché verrà vivisezionato in ogni suo movimento. Allora, guarda, io ti dico una cosa, in questo io ti do ragione. Cioè, io mi ricordo, il ruolo del portiere è molto particolare, è un ruolo che, come quello del tennista, giochi solo contro tutti. Vi ricordate Dida, che portiere che era prima del famoso petardo? Ecco, sì. da quel petardo in poi diventò un rimbambito. Dida. E quindi il portiere è suscettibile di pressioni psicologiche enormi, molto più che di qualsiasi altro calciatore. Forse solo il bomber, il finalizzatore, un pochino gli assomiglia. Quindi, cioè, fossi stato in Raiola, io avrei anche valutato fino in fondo la situazione l'idea del di Milan, tenerlo, perché, di tenerlo ma lì. Certo, ma sicuramente io non sto dicendo il contrario, non sto dicendo che dove è giusto fare la guerra al Milan, perché comunque anche il Milan offriva una situazione molto confortevole, con tanti pro. Evidentemente però sai, ma probabilmente ha pesato anche che una certa incertezza societaria degli ultimi 2 anni, un certo giudizio di Mino Raiola che abbiamo sentito chiaramente negli ultimi mesi, e poi forse anche i rapporti personali. 800 24 00 24, approfitto di Sandro Sabatini, ci sono Fabio da Roma, Fernando da Verona, dai Fabio. Sì, salve, buongiorno. Io sentivo quello che diceva pure Sabatini. Il problema però, secondo me, non è un problema del numero uno, numero due. Il problema è che Raiola deve prendere, passatemi il termine, da stecca. Si chiamano commissioni, Fabio. Commissioni. Senza... mandando il giocatore o a zero fra un anno, oppure mettendo il Milan a spalla al muro, svendendolo quest'anno. Quello è il problema. 10 anni fa, una situazione un po' diversa, quando la Fiorentina dovette vendere... No, Toni chiese alla Fiorentina di essere venduto dopo Calciopoli, dopo il 2006. E quando poi la Fiorentina fu penalizzata, Della Valle chiese a Toni sì, se lo tenne per un anno, anno se lo tenne per un anno, anno prima di mandarlo al Bayern, per dare una mano alla Fiorentina. Sì. Stessa cosa il Milan ha fatto con Donnarumma, gli ha chiesto rinnova, poi magari rivendiamo, credo. No, io non credo questa seconda parte, Milan voleva rinnovarlo e basta. Aspetta, Ferdinando. Salve, salve. Vai. Ragazzi, buonasera a tutti. Ascolti, io parlo come un padre per un figlio. Per me Donnarumma è un peccato che vada via. Siamo davvero dispiaciuti di tifosi del Milan. Avrei voluto vederlo nella maglia rossonera. È ovvio che lui è un campione, è un predestinato. Tutti l'hanno visto, però è un peccato che il Milan non abbia fatto di più per tenerlo. Dovevano piantare i piedi di più e tenerlo al Milan e basta. Vabbè, c'è anche chi dice, Sandro, che ci siano stati degli errori in questi due mesi da parte di Fassoni e Mirabelli, troppa pressione, le minacce. Guarda, di andare in tribuna. Tu credi che Donnarumma possa andare in tribuna per un anno? Guarda, io credo che parlare, capito, adesso commentare quello che hanno fatto Fassoni e Mirabelli, criticarli, sia uno sport troppo facile. Non mi metto nella schiera di quelli che li criticano e che lo dico, se ci fosse stato Galliani sarebbe cambiato tutto. Solo una frase però mi sento di dirla. Tu comunque a un ragazzo di 18 anni, perché ripeto, a 18 anni, per i milanisti e per i non milanisti, per chi lo critica e che per chi non lo critica, tu a un ragazzo di 18 anni tu non devi fare non lo devi bullizzare, almeno verbalmente, dicendo o firmi o vai in tribuna. No, perché lì si va allo scontro. Sì, credo che però tu non possa nemmeno accettare che il suo procuratore dica ci vediamo il 2 settembre, cosa che significa per il Milan non avere nessun tipo di potenza in una qualunque trattativa che a questo punto non c'era. Io non lo so, è difficile trovare i torti, le ragioni in questa vicenda, spacca molto, stanno arrivando centinaia di messaggi, 349-238-6666, ci sono anche i complottisti, Sandro, quelli che dicono che è una manovra di Galliani per portarlo dall'amico Florentino Perez in Spagna, poi magari li leggiamo, insomma. Vi abbiamo anche lanciato, scegliete voi l'hashtag che racconta questa vicenda, noi abbiamo messo hashtag tradimento, andate a cercarci su Twitter. E poi leggiamo anche questi. Sandro, io ti ringrazio, alla prossima. No, devo aggiungere solo una cosa. Riflettiamo anche su questo, vado molto velocemente. Supponiamo Donnarumma firma, ok, il Milan si ritrova in casa un giocatore dal valore, ripeto, di 100 milioni. Noi non sappiamo chi sono questi cinesi, com'è questa proprietà, che cosa faranno. Se non dico domani, ma dopodomani, poi dicono, sai che Donnarumma non ci serve più. Sono liberi questi signori cinesi che non hanno baciato la maglia, non hanno baciato il passaporto, non hanno baciato nulla, capito? Di rivenderlo a 100 milioni. Cioè, Donnarumma, se avesse firmato, sarebbe stato un affare non solo per Donnarumma per mille motivi, ma per mille uno motivi. Se Donnarumma avesse rinnovato il contratto, sarebbe stato un affare per il Milan, Parliamoci chiaro. Sì, non c'è dubbio, ma forse sarebbe anche stata l'evoluzione naturale. Uno cresce nel settore giovanile e poi arriva e fa sto benedetto contratto. Però era una vicenda inestricabile e così si è dimostrata fino alla fine. Grazie Sandro. Ciao, grazie a voi. Ciao, Sandro Sabatini, 800-24-0024. Abbiamo il traffico e poi procediamo. Convocati. Tutti convocati. Cerofolini, pallone sul secondo palo, colpo di testa e gol! Con Zinho van Hoijsden, e ancora lui, Zinho van Hoijsden, che mette la sua firma sul match. Diemers, un'altra versione dentro per Pinamonti. 2-0 Inter, è un grandissimo gol da manuale del calcio, quello della squadra di Stefano Vecchi. Finisce qui e l'Inter di Stefano Vecchi è campione d'Italia primavera, un trofeo importantissimo, prestigioso, il primo della gestione Zhang, arriva dai giovani, dal settore giovanile, dall'Inter che batte in una finale combattutissima la Fiorentina e dopo 5 anni è campione d'Italia primavera. Carissimo Pierluigi Pardo, ciao! Ciao! Abbiamo un campione d'Italia con noi, Stefano Vecchi. Ciao Stefano, buon pomeriggio! Buon pomeriggio a voi. Oh, avviso ai naviganti, poi torniamo a parlare di Donnarumma. La seduta resta apertissima, 800 24 00 24. E io voglio tutti quelli che pensano che sono ipocrita perché dico che ha tradito, li voglio tutti qui, 800 24 00 24. Però adesso ci pigliamo una pausa, tanto abbiamo tempo fino alle 15.30. A parte che Stefano Vecchi lavora con i giovani, è abituato, e credo sia la cosa più complicata, Stefano. Stefano, credo sia la cosa più complicata tenerli coi piedi per terra. Sì, è molto difficile, è molto complicato, soprattutto quando poi hanno esperienze di quel tipo, quando si affacciano, iniziano ad affacciarsi alla prima squadra e vedono realtà è completamente diverse, soprattutto quando hanno a che fare con dei personaggi e con dei campioni che hanno stili di vita soprattutto sopra le righe. Pier. Sì, ma adesso poi ne parliamo lungamente, ma lui c'è un consiglio, se Becchi fosse stato Raiola, oppure il genitore di Donnarumma, che consiglio gli avrebbe dato? Al netto di tutti gli aspetti, diciamo, tra virgolette, etici, morali, perché poi ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe altro, e poi ne parleremo, insomma. Ma dal punto di vista della carriera, per un ragazzo così bravo, a 18 anni, ha senso crescere piano piano? Oppure, se c'è una grande opportunità, immaginiamo che dietro ci sia un grandissimo club, bisogna andare a giocarsela subito? Beh, lui non è cresciuto piano piano, cioè di punto in bianco si è trovato a giocare in prima squadra in una grande società come il Milan, per cui gioca in nazionale, per cui ormai i passi, gli step li ha già ampiamente bruciati velocemente, quindi non c'è più questo problema. È chiaro che poi dopo le valutazioni le avranno fatte loro, lì sa quello che perde, non sa sicuramente quello che andrà a trovare, perché comunque fuori dal Milan poi non sarà più il ragazzo cresciuto dal settore giovanile, ma dovrà dimostrare di essere un campione, perché immagino che verrà pagato anche per quello, quindi e dovrà fare un ulteriore salto di qualità. Sì, c'è da dire che rischia di suo. Io lo saprei da Stefano Vecchi, se dopo aver vinto lo scudetto, abbiamo sentito prima la finale con la Fiorentina, nello spogliatoio ha detto qualcosa ai suoi, proprio per dire: guardate che abbiamo raggiunto un traguardo, ma voi non avete ancora fatto nulla. Sì, l'ho detto subito, deve essere questa stagione, deve essere una stagione che gli deve servire di esperienza e di insegnamento, perché è stata una stagione anche per certi versi sofferta, non pensavamo di, o comunque ci abbiamo creduto strada facendo, ma all'inizio abbiamo beccato anche qualche scoppola importante, e nonostante questo abbiamo sempre continuato a lavorare con impegno, i ragazzi hanno sempre lavorato con impegno, quindi la dimostrazione è che lavorando in un certo modo e con impegno, con professionalità, cercando di migliorarsi, di migliorare i propri difetti, ci porta a vincere, a vivere queste grosse soddisfazioni. Questo deve essere l'insegnamento di questa stagione, al di là del trofeo che rimarrà. Però per loro che sono ad inizio carriera, l'equazione lavoro uguale risultati uguale felicità è una cosa che la stanno vivendo, per cui credo che gli servirà in futuro. Pier, quanto è diverso il lavoro, insomma, lavoro quotidiano sui giovani, e invece la vertigine del lavoro di un allenatore di un club da Serie A? Insomma, sono proprio due sport diversi, e soprattutto Stefano Vecchi che vuole fare da grande, visto che è così giovane, insomma, è campione d'Italia, è promettente anche lui, no? Quindi anche lui è un primavera da questo punto di vista nel mondo degli allenatori. Spalletti ha detto che deve lavorare per metterlo in difficoltà. No, dobbiamo lavorare assieme, cercare come abbiamo sempre fatto noi della primavera, ci siamo sempre messi a disposizione, chiaramente è scontato dirlo perché è logico, della prima squadra, in funzione della prima squadra è chiaro che più lui ci tiene in considerazione, più soddisfazione dà al settore giovanile, perché c'è tanta gente che lavora e che sta facendo cose importanti. Quello che farò sinceramente non lo so, sicuramente la primavera il prossimo anno, perché comunque ritengo che la primavera dell'Inter non abbia niente da invidiare anche a delle buonissime squadre in Serie B. Ci sono arrivato in Serie B ad allenare a Carpi e ho l'esperienza per poter valutare queste cose, per cui e sono molto contento di aver scelto, di aver fatto questa scelta, che vedo aver fatto anche, che ha fatto anche Gattuso, che è ben più quotato di me sotto certi aspetti. Ma non ti dà fastidio ogni tanto leggere che il settore giovanile in Italia, a livello della primavera, è un livello inadeguato per dei diciottenni, diciannovenni? No, non credo che sia inadeguato. Credo però che all'estero abbiano uno step in più che gli permette di crescere e di avvicinarsi un po' di più alla prima squadra, e sono le benedette seconde squadre che se ne parla tanto, ma che in Italia purtroppo non si riesce a venire al punto. Passare da 17enni, 18enni a confrontarsi con dei campioni, soprattutto all'Inter, c'è uno step enorme ed è difficile proporsi. Avere un anno o due in più di crescita, io credo che qualche giocatore in più riuscirebbe ad avere delle chance. Sì, e poi per quello che riguarda la domanda che mi ha fatto prima sul lavoro, è chiaro che con una prima squadra, con giocatori già maturi, bisogna lavorare sulle sfumature, sui particolari, sulla gara da affrontare. Con i giovani chiaramente si deve lavorare sulla crescita e su un bagaglio tecnico e tattico molto più ampio, oltre che chiaramente l'attenzione comunque nel preparare la gara della settimanale. Però con i grandi c'è solo, diciamo così, da lucidarli, da metterli, gestirli. Sì, ma lavorando anche, noi abbiamo fatto 3 settimane facendoli anche lavorare. Però per dire, c'è chiaramente da presentarli al 100%, diciamo così. Con i ragazzi a volte si possono anche mandare un po' fuori giri, nel senso metterli un po' in difficoltà, provocarli e cercare di farli andare oltre i propri limiti per vedere fino a che punto arrivano. Siamo praticamente alla borsa. Io voglio approfittare di Stefano Vecchi per fargli un'ultima domanda, che è questa. Immagino tu abbia seguito come si è presentato Luciano Spalletti nella lunghissima conferenza stampa di un paio di giorni fa. Volevo sapere se per la tua esperienza, secondo te, nelle tantissime cose che ha detto interessanti, ha centrato il punto su cosa è stato e cosa dovrà essere l'Inter. L'ha centrato in pieno quando ha detto che deve esserci una squadra e non il singolo. Qui l'ha centrato in pieno, ma perché sembra scontato, ma a volte non è così. E all'Inter quest'anno ci sono stati tanti singoli e non sempre una squadra, soprattutto nell'ultimo periodo, non sempre un gruppo all'altezza. Quindi credo che abbia giustamente, per l'esperienza che ha, non abbia sbagliato assolutamente a mettere il punto su questa situazione. Non ha sbagliato diagnosi, che è il primo passo per arrivare alla giusta prognosi. Grazie Stefano. Ciao. Grazie a voi, complimenti. Grazie. Anche a te, grazie Stefano Vecchi, allenatore della primavera dell'Inter. C'è la borsa, 800240024, la seduta su Donnarumma, traditore o siamo noi che siamo ipocriti, riapre dopo la borsa. Ci sono Francesco, Valerio, Sergio, Moreno, una marea di messaggi. Voglio sapere anche i vostri hashtag per definire la vicenda Donnarumma. Borsa, torniamo subito. Tutti convocati. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Un Ovviamente potete vederci anche oggi, sito radio24.it, oppure venite a cercarci sulle pagine Facebook Radio 24, ma soprattutto tutti convocati, trattino Radio 24, dove ci state tra l'altro scrivendo in tantissimi. Carissimo Pier, Marco che dice deve rimanere Donnarumma al Milan senza giocare per un anno, sentirsi sotto assedio dei tifosi, poi Crescenzi, i giocatori bandiera non esistono più, sono solo professionisti che guardano al guadagno. Poi Giuseppe, prendiamo Perin, trattiamo con il Real Madrid, semmai con qualche scambio, magari Cristiano Ronaldo, poi ne parliamo dopo le 15 di questa incredibile vicenda di Cristiano Ronaldo che ha avvisato Real che se ne va per le questioni fiscali. E ancora Claudio De Luca, è traditore poco per un personaggio così ingrato con un IBAN al posto del cuore. Pier? Ma allora guarda, io ho scritto ieri e ribadisco, secondo me Donnarumma sbaglia, del resto sono giorni che ne parliamo in radio. Io, se fossi un suo amico, un suo procuratore, un suo parente, come ho detto più volte in questi giorni, gli avrei consigliato, ma al di là di tutti gli aspetti, diciamo, etici, diciamo una parola grossa, perché anche per convenienza di carriera. No, io parlo dal punto di vista suo. È un ragazzo di 18 anni che aveva fino a pochi giorni fa un grande credito di popolarità tra i tifosi del Milan e più in generale tra gli appassionati di calcio in Italia. Il futuro Buffon, 18 anni, il Milan comunque sta facendo delle cose importanti, si chiama Milan, c'era un'offerta significativa, c'era tutto per restare, Pier, sono successe negli ultimi 20 giorni delle cose, un'offerta importante nei suoi confronti, quindi anche dal punto di vista economico un'offerta importante, e al tempo stesso una crescita del Milan che si è mosso sul mercato tantissimo, ha fatto delle cose importanti, sono successe queste due cose, quindi a questo punto per Donnarumma era nettamente meglio rimanere. È chiaro che magari fra 10 giorni sono che pare al Madrid a guadagnare il doppio, quindi è difficile dirgli che faccia male, però in ogni caso secondo me, se lui sarà, come io credo, un portiere top, Real Madrid ci va magari fra due anni. Ci sarebbe andato con calma, c'ha davanti 20 anni di carriera. Esatto, corre il rischio di bruciarsi, e in realtà arrivare al Milan potrebbe essere un'occasione per vedere poi fra un anno, due anni, tre anni, se il Milan non riesce a riacciuffare le grandi d'Europa. Nessuno chiede ai calciatori di fare quello che ha fatto Totti, che è un meraviglioso gesto di amore per la sua città e per la sua squadra. Un giocatore ci sta, che se è un top possa decidere di andare però, a giocare. Però c'è Totti, però è un po' presto. È un po' presto e male soprattutto. Allora, abbiamo convocati. Non è stata fatta in maniera chiara. No, assolutamente. Francesco, Valerio, Sergio e Moreno. Partiamo da Francesco, dai. Ciao, vediamo di starci tutti prima del traffico. Francesco, grazie per questo spazio. Volevo solo dire questo. Io sono a favore del fatto che Donnarumma sia andato via per una ragione. Perché il mondo del calcio, di cui non mi intendo, lo ascolto solo grazie a voi perché siete equilibrati, è un mondo di ipocrisia. Questi ragazzi già a 14-15 anni, quando hanno talento, hanno una strada davanti che è altro che aspettare 18 anni. Per cui Donnarumma secondo me ha fatto quello che andava fatto, è un campione, lo hanno detto tutti, e si sta trovando una strada. Tuttavia gli suggerisco una cosa, la smettesse anche lui con le sceneggiate di questi baci alla maglia, di queste manifestazioni di affetto che nel calcio rappresentano l'ipocrisia. Non contano nulla. Assolutamente, che tra l'altro hanno anche offeso, insomma, ha fatto un'intervista 10 giorni fa dicendo che lui voleva restare al Milan. Valerio da Napoli, Valerio. Buongiorno. Io non sono a favore di Donnarumma, ma sono sicuramente contro Raiola. Io penso che squadre come il Milan, con la tradizione del Milan, apro e chiudo parentesi, sono tifoso del Napoli, con la tradizione del Milan, con il valore del Milan, con l'avviamento del Milan, non possono essere sotto scacco di procuratori che di fatto sono dei trader e guadagnano solo ed esclusivamente a passaggio di mano. Più ne fanno, più guadagnano. Per quanto riguarda Donnarumma, è un ragazzino, riuscirà presto o tardi ad avere un conto ben cospicuo. Gli do solo un consiglio: come è di Castellammare, faccia finta di non averli proprio visti quei soldi, vada direttamente in penisola sorrentina amalfitana e investa tutti i suoi soldi in immobili di quella hai capito Pier che lei di che cosa, di tecnocata? Si sta candidando, si sta candidando Valerio Folkers, che per chi lavora. No, ma sono delle case meravigliose, è una terra meravigliosa quella. Sì, no, sì. Ma Vai, andiamo avanti, c'è ancora, tanto deve comprare anche la grande casa in centro a Milano, no? Quindi avrà i soldi per fare tutti gli investimenti immobiliari che vuole. Sergio da Grosseto. Buonasera, grazie per la convocazione, anche se oltre dopo un mezzo secolo, in quanto sono stato calciatore anch'io, anche se di Serie C. Allora, la situazione è molto complessa, perché diciamo, mi dispiace per il Milan, per i tifosi. Io 2-3 anni sarei rimasto anche per realizzare questa plusvalenza del Milan, e chi ha creduto in me mi ha valorizzato. È difficile resistere al canto delle sirene. Sono stato anche ex procuratore e devo dire che non sono affatto d'accordo con la strategia al rialzo di Raiola, che con una volta le mediazioni erano contenute massimo al 5%, e quindi queste mediazioni a rialzo e a tutti i costi voler cambiare maglia ogni volta, perdono appeal da parte del giocatore, da parte ma perché dei sono cambiate eccetera. Anche le regole, quindi, carissimo Sergio, certo, per i procuratori però ballano tutti i bilanci. Una volta non si poteva fare quella roba lì, oggi si può Sì, però insomma, io guarda, apprezzo molto l'intervento dell'ultimo ascoltatore. Io credo in generale il tema non sia appunto un tema moralistico, non sia, cioè, se Papa Francesco dice chi siamo noi per giudicare, figuriamoci se noi possiamo permettere di giudicare il comportamento di un professionista che decide che c'è una soluzione che gli piace di più. È la maniera, che secondo me non è adatta, ed è la strategia che secondo me lo espone a dei rischi quando aveva tutte le possibilità per poter crescere bene. Poi io sono abbastanza convinto che Donnarumma sarà un fenomeno, sarà più forte di tutto questo, e fra 3 anni, 4 anni magari a Madrid o a Parigi o dove andrà, insomma. Ma tu credi oggi che il Milan farà il muro contro muro fino alla fine e lo terrà in tribuna? Bah, mi sembra posizione popolarissima in questo posizione momento in questo e io devo dire da un certo popolare. Punto di vista la condivido in pieno, sì, diciamo. Poi anche, però anche Fassone molto, è molto realpolitik da qui al 31 agosto. Sicuramente, no, io penso che questa sia la posizione, sia anche un po' gioco delle parti. Al di là del fatto che sono d'accordo con te, cioè è una posizione anche un po' didattica, no? quasi educativa, nel senso che il Milan rischia di perdere un patrimonio enorme, c'è anche questo aspetto qui della vicenda, il mondo del professionismo. I soldi non si regalano a nessuno, quindi non si regalano penso nessuno. Che alla fine poi si siederà al tavolo con il Real Madrid di turno, con il Paris Saint-Germain di turno, vedremo chi ci sarà, e alla fine insomma si cercherà di trovare una soluzione. Però non sarà mai una soluzione troppo soddisfacente per il Milan, perché insomma, se il Milan avesse fatto rinnovare il contratto a Donnarumma poi poteva andare a venderlo, visto che stiamo parlando di un top player, poi lo andava a vendere a una cifra importante. È chiaro che col giocatore in scadenza questa cifra si abbassa molto notevolmente anche se non sono i 10 milioni della famosa clausola richiesta da Mino Raiola. Aspetta, perché abbiamo ancora Moreno, tra l'altro leggo alcuni degli hashtag che ci state mandando su Twitter, che abbiamo lanciato questo sondaggione. Dateci il vostro hashtag. Soldarumma, falsità, mezzo uomo, Plizzari Time, Dannoruba, no Neto, perché c'è chi non vuole Neto che pare in pole position per prendersi la maglia di Donnarumma, falsità, mercenari, insomma ce ne sono tantissimi. Moreno, dai, Moreno da Milano. Ciao, buongiorno, io sono un tifoso della Juve, ma sono assolutamente allibito dall'atteggiamento di Donnarumma, anche perché secondo me da ieri, ma già da un po', non è che i mercanti sono entrati nel tempio, se lo sono proprio prese. Ma il problema di fondo è che se poi escono i tifosi, nel tempo ci escono solo i vari Raiola, quelli che parlano di marketing, fatturati, e non capiscono che se i tifosi se ne vanno, poi il giocattolo si rompe. Non so cosa ne pensate voi. Ma sì, perché il giocattolo regge tutto poi sulla passione dei tifosi. Aspetta che lo chiediamo Pier, aspetta, perché l'abbiamo agganciato e lo ringraziamo Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo. Direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Da operatore del settore, voi non avete paura che poi i tifosi se ne vadano disamorati da mille vicende? Adesso stiamo parlando di Donnarumma, vale per i tifosi del Milan, però ne abbiamo raccontate tante. Ma beh, io credo che la cosa principale è mantenere sempre questa passione e il gioco del calcio. Nel momento in cui manca la passione, manca la fidelizzazione dei tifosi, manca un po' tutto, per cui oggi si va sempre più a un calcio basato su tutto quello che è l'aspetto economico, per cui si parla soltanto di bilanci, però non si parla poi invece che quello che è la cosa più importante, che è la passione del tifoso verso questo gioco. Quindi nemmeno a lei piace tantissimo quello che è successo da osservatore esterno, Ma beh, sicuramente non è una bella cosa, perché chi ama il calcio, chi ama questo sport, è vero, siamo dobbiamo gestire le società, però fondamentalmente credo che il bello sono anche altre cose. Poi capisco le difficoltà che può avere una società come il Milan, le difficoltà che tante volte si possono incontrare, le problematiche dei procuratori, tutta una serie di cose. Quello che non dobbiamo far proprio che venga meno è proprio questa passione da parte di tutti noi, dei tifosi soprattutto, ma non solo, per cui deve esserci il bello del gioco, e questo si rischia a volte di rovinarlo. Allora Pier, abbiamo il traffico, quindi io credo, chiedo un minuto di pazienza a Giovanni Carnevali, poi parliamo un po' del Sassuolo perché ci sono tante curiosità, e anzi vi chiedo anche di scrivere 349-238-6666. Un minuto di traffico, torniamo subito. I love this game. Tutti convocati. Allora, siamo con Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo. Abbiamo 5 minuti, li riempiamo di contenuti, carissimo Pier. Allora, intanto il Sassuolo è l'ultima di A con la panchina libera. Perché prendete Bucchi, direttore? Ma sì, penso che adesso nell'arco di pochi giorni andremo anche noi a occupare questo posto. Abbiamo fatto la risoluzione del contratto l'altro giorno con mister Di Francesco, e adesso ci concentriamo un po' per definire chi sarà il prossimo allenatore, che comunque sarà un allenatore giovane, un allenatore che potrebbe essere anche il discorso di Bucchi. Pier, alla Roma, vi siete immagino parlati molto, c'era anche da sbloccare il nodo della clausola, poi c'è stata la conferenza stampa. Ci racconti qualcosa di inedito su Di Francesco, che abbiamo visto già molto carico? Diciamo che con Di Francesco non c'è soltanto un rapporto di lavoro, ma c'è anche un rapporto proprio umano, per cui c'è un grandissimo feeling con lui, e nel momento in cui c'è stata questa opportunità è chiaro che è stato anche il suo primo desiderio, per cui con la Roma ha un legame e noi abbiamo cercato di accontentarlo. Abbiamo trovato la soluzione, anche se sicuramente magari sono passati un po' di giorni per trovare quella poteva essere appunto l'opportunità, visto che c'era un contratto che lo legava ancora a noi per le prossime due stagioni. C'era una clausola, chiaramente noi non eravamo disposti a rinunciare, ma ci è dispiaciuto perché magari in quel momento lui poverino si è trovato in mezzo a una situazione magari in cui c'era il desiderio di andare ma non si riusciva a trovare la giusta via d'uscita, che poi dopo, parlando direttamente con la società al loro rientro dall'America, è il giro veramente di poco tempo, visto anche i buoni rapporti che abbiamo e soprattutto visto tutte le opportunità di collaborazione che esistono e che potranno esistere, abbiamo sicuramente trovato una via ottimale per tutti. Ma magari ha avuto paura di perdere il treno di Francesco ed era comprensibile dal punto di vista umano. Faccio sintesi di alcuni messaggi che stanno arrivando. Quanto costa quest'anno Berardi, reduce da forse la stagione peggiore? Qualcuno dice forse era meglio venderlo 2 anni fa, l'anno scorso. L'anno scorso Berardi è stato lì per andare alla Juventus, c'era anche un accordo tra le due società, poi dopo lui ha preferito rimanere con noi anche per più che altro per continuare questo percorso di crescita, e lo voleva fare con la nostra società, anche perché dovevamo per la prima volta partecipare anche all'Europa League. Lui è partito non bene, benissimo, ha fatto veramente una prima parte di campionato, la prima parte anche delle coppe in modo straordinario, poi l'infortunio l'ha fermato, è chiaro che è stato anche un infortunio che l'ha portato ad essere assente dai campi di calcio per un bel po' di tempo, ha ripreso molto bene nella parte finale e adesso lo vedremo all'opera con la nazionale. È un giocatore che io credo che veramente abbia oggi sia uno dei migliori talenti che si possa avere nel nostro campionato. A noi ci farebbe piacere poter continuare con lui, perché sarebbe bello che lui diventasse un po' la bandiera del Sassuolo, anche perché il nostro patron Squinzi vorrebbe riuscire a portare questa società a ottenere dei risultati di un certo tipo. Sappiamo comunque che è difficile, anche perché ci sono varie richieste da parte di società, soprattutto straniere, che sono interessate a lui. Io credo che dovremmo trovarci e capire un po' la volontà sia della società che può essere sì. La sua futura società, il suo desiderio, perché anche lì dobbiamo capire che cosa vuol far lui, e poi dopo traeremo le migliori conclusioni per tutti. Pier. È arrivata una lista di nomi di Francesco, cioè, si parla molto di Pellegrini e il discorso potrebbe riguardare anche Berardi, insomma c'è il rischio, voi non avete mai, praticamente mai cambiato allenatore in questi anni, se non la parentesi Varesani, c'è il rischio, opportunità magari che dietro la partenza dell'allenatore ci possa essere qualche richiesta e qualche cessione? Ma allora, sì è vero, io non direi che è un rischio, non so neanche se è un'opportunità, è tutto da valutare, anche perché come volontà nostra sarebbe quella di mantenere un po' lo zoccolo duro della squadra, non vogliamo cambiare tanti ragazzi perché diamo una priorità a quello che è un po' il risultato sportivo, perché per noi è il quinto anno, la prossima stagione che andremo a fare questo massimo campionato, e vorremmo continuare e vorremmo cercare di migliorarci sempre, per cui la difficoltà sta che oggi abbiamo dei giocatori importanti, abbiamo dei giocatori che sono cresciuti, abbiamo dei giocatori che ci sono richieste da società big, ed è normale che nel momento in cui queste società ti vengono a chiedere o vanno direttamente a chiedere un giocatore, poi diventa difficile trattenerlo. Nell'argomento di prima si parlava di Donnarumma, dei procuratori, ed è normale che dal momento in cui i procuratori vanno a mettere in testa il giocatore che ci sono squadre di grande valore, sì, diventa difficile avere argomenti da contrapporre, che magari gli possono offrire uno stipendio che 5 volte quello che possono percepire da noi. Allora uno può anche fare uno sforzo sotto l'aspetto economico, ma però alla fine è chiaro che poi l'ambizione di andare da qualche altra parte diventa ancora più importante. È difficile per tutti, è difficile per il Milan, è difficile per il Sassuolo, diventa difficile trattenerli. Noi ci proveremo fino all'ultimo, perché siamo una società che non ha intenzione, è importante che abbiamo i bilanci sani, c'è un discorso di fair play finanziario in cui il Sassuolo proprio è perfetto, allora dobbiamo lavorare sempre con la massima serietà, ma cercando comunque di dare una priorità al risultato sportivo. Bene, noi siamo sotto GR, io ringrazio Giovanni Carnevali, grazie direttore. Grazie a voi, buona giornata. È stato un piacere, saluto anche te Pier. Ciao. Ci sentiamo domenica dalle 17 alle 19, dopo il GR Racing Team con Leo Turrini e Roberto Ungaro. Ma ragazzi, la seduta su Donnarumma non è tolta, 800-24-00-24, e poi parliamo dell'incredibile vicenda di Cristiano Ronaldo che vuole abbandonare il Real Madrid. Bene, allora siamo tutti convocati. Convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo, o vuoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Tutti convocati. Racing Team. Racing Team anche questo venerdì, anche se Formula 1, MotoGP questo weekend dormono, perché sono tutti lì che ragionano su Donnarumma, quindi non potevano correre. Allora, corrono settimana prossima, ma noi Racing Team non vi abbandoniamo. Roberto Ungaro, ciao! Ciao Giovanni, ben ritrovati a tutti. Allora, intanto abbiamo già Davide Brivio che è collegato con noi, team manager di Suzuka, che ringrazio. Davide, ciao, buon pomeriggio. È collegato? Sì, adesso lo recuperiamo. Allora approfittiamo. Sono molto contento, Giovanni, perché essendoci Davide, Leo può chiedere direttamente a lui di Belè. Adesso, allora, salutiamo cosa. Anche Leo Turrini. Ciao Leo. Ciao Leo. Niente, oggi i telefoni ci tradiscono. Facciamo così. Vi ricordiamo che siamo visibili anche sulle nostre pagine Facebook, Radio 24 e tutti convocati trattino Radio 24. Prendiamoci questo primo minuto di Racing Team con Roberto Ungaro per chiarire una cosa di cui abbiamo parlato lunedì e che ha fatto molto discutere. Eravamo con Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, e cioè la vicenda Michelin, il trattamento diverso, presunto, assolutamente presunto, rispetto alle altre scuderie. Sì, hai ragione Giovanni, io ho semplicemente riportato quelli che sono i rumors del paddock, quindi non è il mio pensiero. Abbiamo evidenziato il grande lavoro che ha fatto Andrea Dovizioso, perché ha proprio ragionato sulla gara, si è preparato per il consumo delle gomme. Paolo ci ha svelato che nell'FP4 ha fatto mezz'ora con la gomma usata per vedere quanto resisteva, infatti lui è rimasto lì per 3/4 della gara, lo si vedeva quando era dietro a Pedrosa, non rischiava, staccava molto prima, si alzava prima col busto, accompagnava la staccata, poi quando è stato il momento è andato dentro. Ma quello che dicevo io è che tutte le altre Ducati hanno avuto una performance al di fuori del comune, e vedi per esempio il finale di Lorenzo, che ha fatto un finale strepitoso, ma anche gli altri, se andiamo a vedere, a parte Petrucci che comunque era messo bene, è caduto. E questi erano rumors che si sentono del paddock, da quelle voci, esatto, quelle voci, esatto, insomma, esatto, che tu hai correttamente riportato. Allora, abbiamo recuperato Davide Brivio, che risaluto. Brivio, buon pomeriggio. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao a voi. Si parla di gomme, grande tema di questa stagione. Sì. Non si dovrebbe parlare così tanto di gomme, no? È vero. È un peccato che tutto ruoti attorno a quell'argomento lì, Davide. Vero o no? No, beh, dobbiamo anche, vabbè, poi magari è vero che è anche facile attaccarsi un po' a questo discorso, però è vero che se ne sta parlando molto, sì, molto più del normale. E così, vabbè, siamo solo al secondo anno del ritorno di Michelin, quindi anche lì stiamo un po' lavorando tutti insieme per cercare di capire quali siano le gomme migliori. Poi spesso cambiano, e questo credo che da un lato sia anche il desiderio di Michelin di voler provare un po' ad accontentare tutti, provare a seguire le richieste dei vari team, così cercare di far contenti più piloti possibili. Quindi magari siamo ancora forse un po' in sviluppo, adesso bisognerebbe chiederlo a loro, però la mia sensazione è che stiamo ancora lavorando magari per trovare una buona base, sviluppare, e poi comunque è normale che un fornitore di pneumatici cerchi sempre di migliorare le prestazioni, quindi magari di migliorare i tempi sul giro, di migliorare i tempi dell'anno precedente, quindi c'è un lavoro un po' continuo, ecco. Sì, state prendendo le misure. Ci ha raggiunto anche Leo Turrini. Ciao. Oh, Leo. Scusate, volete sapere dove sono io? Dove? Sono fermo sulla Piero Cormano. Sì. In coda. Dietro Donnarumma. Ci sono tutti i tir che il manager lì, come diavolo si chiama, Raiola, ha ordinato per il trasloco di Donnarumma. Sono 8 tir che stanno portando via tutto. Non ho capito se verso Manchester o Madrid o la Torino Juventina, ma c'è una coda pazzesca. Allora io volevo dire il topo Gigio dei portieri, che sarebbe poi Donnarumma, ma ci hai pensato bene? Voglio dire, in fin dei conti stavi a casa tua, eri tra i tuoi amichetti d'infanzia, al Milan e tutto il resto, e li lasci così. Ma non lo so, è una cosa dolorosissima, veramente. Ha voluto crescere in fretta. Allora abbiamo Davide Brivio, abbiamo carissimo Davide Brivio. Brivio, carissimo amico, per me è un punto di riferimento assoluto anche a livello culturale, intellettuale. Insomma, Brivio, spiegami un po', dai, Brivio, dai. Qui ce lo chiediamo in tutta Italia, Brivio, ma perché Iannone? Cioè, stiamo vedendo Dovizioso che senza Belen ogni gara una vittoria. Iannone, quando erano in Ducati, andava forte come lui, forse anche un po' di più, si è trasferito alla Suzuki, c'è di mezzo Belen, io non lo so, Brivio, dacci una speranza, Brivio. Infatti l'hanno allontanato. Siamo tutti molto addolorati, dici qualcosa, Brivio, di qualcosa. No, vabbè, noi abbiamo bisogno un po' di lavorare, nel senso che credo che Andrea Iannone, in questo caso, stia facendo un po' un lavoro di adattamento alla moto, forse è il lavoro inverso che sta facendo Lorenzo. Lorenzo da una Yamaha, diciamo da una moto giapponese alla Ducati, deve fare un periodo di adattamento, e lo stesso percorso lo sta facendo Iannone. Sì, però Iannone... Brivio, tu sei Brivio, fermati, però, tu sei un mio amico, ti devo fare una domanda. Ma non essere che... troppo cattivo. No, ma non è che alla fine della fiera, con tutto il rispetto, questa Belen porta sfiga, ascoltami, corona in galera. Ma no, Borriello, quando frequentava Belen, Borriello ha fatto una stagione straordinaria. Allora, guarda, Brivio, dici qualcosa, Brivio, mettici la mano sul cuore e parla a tutti i maschi d'Italia con franchezza, sii onesto, Brivio. Allora, adesso si fa un gran parlare di Belen e di questa cosa. Brivio, bravo, dici. Penso che questa storia possa portare solo serenità, no? Insomma, di solito se uno è innamorato e sta bene è solo che contento, quindi non credo. Allora sarebbe insomma, non, nel nostro lavoro non possiamo pensare a queste cose, no? Queste qui le lasciamo ai gossip, ai giornali di gossip. Bravo, Brivio. Semmai noi dobbiamo pensare agli aspetti tecnici, sportivi, ed è quello sul quale stiamo lavorando. Andrea Iannone, ve lo garantisco, è il primo che vuole venire fuori da questa situazione. Lo vedo soffrire molto, perché è uno che comunque vuole vincere, vuole far bene, e credo anche che voglia ripagare noi, la Suzuki, della fiducia che gli abbiamo dato e dell'aver creduto in lui. E si sta impegnando, sta pensando come fare. Stiamo lavorando tutti, noi stiamo cercando tecnicamente di venire un po' incontro alle sue esigenze. Lui ci ha segnalato dei problemi che abbiamo. La moto è migliorabile, va migliorata un po' in frenata, va migliorata un po' nel grip, alcune cose migliorabili, un po' come tutte, perché vediamo che tutti stanno lavorando, tutti di più o meno su un aspetto o su un altro. E poi dopo lui deve fare un adattamento a questa, diciamo, moto giapponese, che è un po' diversa da quella che ha guidato per 4 anni. Ma e questo lavoro per caso, tempo. Per caso si sta adattando anche al ruolo da prima guida, cioè quello che deve indicare come si sviluppa una moto? Allora, questo sì, e poi lui ha il grande svantaggio anche di essere solo. Questo è un aspetto molto importante, nel senso che, per esempio, Lorenzo si sta adattando alla Ducati, sta facendo un lavoro difficile, però ha una cosa che lui ha Dovizioso, che sta vincendo le gare, o comunque ha altri piloti Ducati che stanno andando bene perché sono abituati alla moto, la conoscono bene. Quindi se Lorenzo è settimo, ottavo, oppure prende 20 secondi, ma ha un compagno di squadra che va più forte, lui deve cercare di capire, anzi si può ispirare, può guardare cosa sta facendo e cercare di velocizzare i suoi tempi. In questo caso Iannone è rimasto solo, perché purtroppo Rins si è infortunato, e quindi deve sobbarcarsi un po' tutti i problemi, e non ha un riferimento, anche uno stimolo sportivo. Dai, sappiamo bene che è sempre importante averlo, no? Quindi quando tu sei in difficoltà e c'è il compagno di squadra che va un po' meglio, quantomeno ti rimbocchi le maniche. Il tuo carissimo nemico di box. Ah, Roberto, dai! Davide, allora, io volevo chiederti 3 domande. Innanzitutto, se i problemi vostri specifici sono, come si dice, elettronica e motore, cioè ancora un po' indietro la Suzuki. La seconda domanda è, dice che Pocharal perderà Monster, la Yamaha, perché il team della MotoGP sarà fatto con Yamaha nel 2019. Se ti chiedessero di tornare al grande amore, ovvero VR46 e gestire una Yamaha, lasceresti la Suzuki? Questa è una domanda difficile, però so che potrebbe verificarsi questi posti, anche perché Suzuki comunque dovrà aggiungerle 2 moto, come da regolamento saranno 4, chi sarà non si sa. E poi la terza è la domanda che ti farà Leo Turrini, questa volta l'anticipo io, riguarda Belen, guarda un po', ma la domanda è specifica ed è molto aggiornata: come mai è stata allontanata dai box? Cioè, è stato richiesto di non presenziare così assiduamente? Io allora, mi metto qui, aspetta, e prendo nota. Partiamo dalla terza o partiamo dalla seconda? Partiamo dalla terza, così Leo Turrini è tranquillo. Ma so che Leo ci tiene molto. Allora vabbè, per chiudere, diciamo, la parentesi rosa parlando di Belen, cioè, mi sembra possibile che la Suzuki abbia chiesto di allontanare Belen dai box? Veramente. Almeno è scritto. È scritto questo che mi preoccupa, nel senso che è una cosa ovviamente assolutamente non vera e assolutamente credo che nessuno ci abbia mai pensato, ma anche perché, adesso lasciatemi dire questo, quando lei è venuta alle gare è sempre stata molto discreta, devo dire, io a volte magari non l'ho vista neanche per un giorno o due che era già lì, quindi direi che quando è presente in circuito veramente rispetta molto il lavoro che il problema sta facendo. È un po' uno stimolo dire che Belen è discreta, perché lei in quanto è esserci non riesce a essere no, discreta. Ma davvero, quello. No, comunque, no, sto scherzando, magari, ovviamente. Magari no, ma magari la sera viene in ospitality a cena, ma durante il giorno, mentre Andrea lavora. Io nel Borno l'ho vista molto molto raramente, devo dire la verità, quindi... E credo che sia, insomma, intelligente da rispettare il lavoro che Andrea sta facendo nel box, in questo momento assolutamente niente da dire. Invece, quindi non abbiamo potuto allontanarla perché non viene molto spesso, capito? Perché quindi, non c'era niente da allontanare. Invece sulla Suzuki, Andrea, io sul futuro, parliamo di moto, che tu sei una risorsa e ci puoi dire delle cose, Davide. La prima domanda non mi ricordo più qual era. Se il problema specifico è motore, come si dice, che manca un pochettino, elettronica, e che è un po' indietro. Non avete fatto lo steppettino come gli altri. Allora, per quanto riguarda il motore non è un problema, nel senso che in termini anche di prestazioni così non ha, direi che è un buon livello, non abbiamo da lamentarci. Ovviamente nella MotoGP si sa, la Ducati ha delle prestazioni superiori a tutti, però direi che poi, tolta quella, ce la giochiamo bene con tutti e i nostri piloti non si sono mai lamentati di prestazioni del motore. Poi è migliorabile un po' l'accelerazione, però in termini di prestazione pura no. Quindi invece per quanto riguarda la parte elettronica, vero, è una delle aree sulle quali noi possiamo migliorare e stiamo lavorando, abbiamo rafforzato molto il reparto, anche in Giappone stanno facendo degli sforzi in più, quindi è un'area sulla quale stiamo lavorando e credo che stiamo migliorando un po' gara dopo gara. Sul però futuro è migliorabile, invece? Sicuramente. Come? Sul futuro? Il futuro, per quanto per quella lì è una cosa nuova. Quella domanda lì. No, ma non lo so, l'ho sentita dire da te adesso, ma non... ho sentito dire qualcosa nel paddock, ma mi sembra una cosa così remota. Ma Roberto è maligno, lui raccoglie. Comunque io sto lavorando con Suzuki, sono molto contento di Suzuki, chiaramente ho un grande senso di gratitudine nei confronti di Valentino, perché grazie a lui ho imparato molto dalle corse, anche di come magari fare il mio mestiere, ho imparato un po' la mentalità vincente, anche se adesso non stiamo vincendo, ma insomma, almeno mi ha spiegato come si fa per provare a vincere. Abbiamo vinto insieme e chiaramente Valentino ha sempre un posto privilegiato nel mio cuore, chiaramente. Io sto lavorando molto bene con la Suzuki e per ora ho un progetto da fare, vorrei portare la Suzuki a vincere, vorrei provare a vincere con la Suzuki. Compito difficilissimo, arduo, però insomma bisogna saper sognare. Valentino non si può parlare male, però non è ancora il momento. È ancora presto. Davide, allora concludo così. Se ci fosse stato Zarco che potevi prenderlo al posto di Rins, sarebbe stato diverso quest'anno. Non lo so, guarda, ci ho pensato. Ovviamente sì, vabbè, adesso è facile. Chiaramente vabbè, io mi assumo tutte le responsabilità insieme alla Suzuki della scelta fatta, eccetera, eccetera. E, sai, credo anche che forse Zarco avrebbe potuto magari fare più fatica con noi, nel senso che allora lui si sta dimostrando un grande pilota, io gli faccio complimenti, glieli faccio sempre ogni volta che lo vedo e sono contento, perché poi ho passato un po' di tempo con lui l'anno scorso quando abbiamo fatto un test in Giappone, è veramente un pilota di altri tempi, uno di quelli che veramente vive per la moto, appassionato, è bellissimo, sa tutto della storia del motociclismo, anche quella di quando lui non era ancora nato, e si vede che ha una grande passione, da questo punto di vista è veramente ammirevole. E mi fa molto piacere che vada bene e che abbia fatto un buon debutto. È vero che credo che nella situazione in cui lui è, correndo per il Tecro A con una moto, diciamo, satellite che non ha bisogno di sviluppo, lui si può concentrare solo sulla guida, cioè diciamo imparare, guidare. Quindi è nella condizione ideale per rendere sì, al meglio. Ma questo nulla toglie, non toglie nulla al suo valore. Al grande lavoro che sta facendo, nulla toglie assolutamente, allora. Cioè buon per lui. Però da noi avrebbe dovuto magari sobbaccarsi un po' di sviluppo, fare delle scelte, magari poi la nostra moto non possiamo dire che è a livello della Yamaha, onestamente, sono molto sincero. Cioè, sì, quindi ci hai pensato, però non è che l'equazione sia così semplice. Allora, avete visto quanto contenuto vi abbiamo dato anche in una settimana in cui di motori veri ce ne sono pochi. Ringrazio Davide Brivio, team manager di Suzuki, tanto torneremo a disturbarti. Grazie Davide. Io ringrazio voi e saluto tutti. Ciao a tutti. Ciao. Saluto anche Roberto Ungaro. Ciao Roberto. Ciao Giovanni, alla prossima. Alla prossima. Saluto Leo. Voglio sapere da Leo Turrini se è soddisfatto. No, perché io volevo dire a Brivio, che purtroppo ci ha già lasciato, che se proprio dovessero decidere di allontanare Belen dai box, mi ha telefonato Carlo Gente, tuo foto, la possono mandare da noi in diretta, facciamo questo tutti non c'è del weekend dei Gran Premi. Io e Carlo con il tuo assenso. No, ma ti devo dare questa cattiva notizia. La domenica ci sono io, non c'è Carlo, è ospite. No, ma anche il venerdì, il sabato, quando sono le prove, hai capito? Noi siamo prontissimi a raccogliere l'opinione di questa opinion leader argentina. Allora lo diciamo. È in grado di spiegarci la rava e la fava. Ecco, è complicatissima, sì, abbiamo capito. Avevamo capito, Leo. Grazie, Leo. Un abbraccione e buon fine settimana a tutti. Ciao, alla prossima. Leo Turrini, abbiamo 4 minuti per cercare di spiegarvi il caso che sta agitando Madrid. Filippo Maria Ricci, ciao. Buon pomeriggio. Ah, guarda come si sente bene Filippo, il potere della tecnologia. Dai. Il 4G spagnolo, sì, come va? Sì, bene, bene, molto bene. Senti un po', come si sono svegliati questa mattina tifosi, dirigenti del Real Madrid? Incredibile. Notizia, sì, da Bola in Portogallo. Ronaldo ha detto che se ne va. Esatto, a Bola dice questo. E attenzione, la notizia che parte dal Portogallo è stata presa con grande, diciamo, serietà qui in Spagna. E ovviamente stiamo parlando di una cosa molto molto complessa e ovviamente è legata al caso di frode fiscale di cui è accusato Ronaldo, no? Che da CR7 è diventato CR14,7. Sì, maligni catalani. Queste sono le prime pagine dei giornali catalani, si sa come funzionano, sì, le cose. E allora, il percorso è molto simile a quello di Messi, in tanti sensi, no? Questi due ragazzi è incredibile come siano sempre legati, no? In fondo, no? Nella lotta alla Liga, alla Champions, il pallone d'oro e adesso anche con questa storia della presunta frode al fisco. E Messi si era lamentato perché secondo lui il Barça non l'aveva trattato bene, non l'aveva protetto a sufficienza. Praticamente Ronaldo sostiene la stessa cosa del Real Madrid. Quindi vuole l'endorsement del Real Madrid. Vuole che l'ha avuto, c'è stato un comunicato ufficiale l'altro giorno. Secondo me il Madrid, anche perché ha già visto cosa era successo tra Messi e il Barcellona, si è immediatamente mosso e ha detto no, innocente. Benissimo, a parte che l'innocenza la dimostrerà eventualmente il giudice, però si è un po' risentito, perché secondo lui un'altra delle accuse che lui muove è quella che se c'è un pasticcio fiscale non è colpa sua ma colpa del Real Madrid. Io ho i miei dubbi in questo senso. Vabbè, ma tu hai mai trovato uno accusato di avere evaso le tasse, esatto, che ha alzato la mano e ha detto sì, sono colpevole? Colpa mia, no. Esatto, sì, volevo fregarvi, ma avete beccato, bravi, e adesso pago. No, non è ancora nato. Però torniamo a noi per cercare di capire quelle che poi possono essere le possibilità, no? Ronaldo dice se ne vuole andare. Anche perché c'è sempre quella cosa là di chi avrebbe offerto 180 milioni che non ha nome e sì, che sempre dal Portogallo sempre veniva. Sì. Ma evidentemente sono informati. Sì, però anche lì dicevano può essere un club francese, un club cinese, sì, o non so cos'altro avevano messo nella lista. No, allora io vedo, cioè Ronaldo ha appena rinnovato un vitalizio, con un contratto vitalizio appena firmato con il Real Madrid, c'è la Nike di mezzo, qua secondo me è come al solito mettersi un po' d'accordo su chi pagherà la multa che sarà salata. Cioè Messi mi sembra che alla fine al fisco ha dato qualcosa come 54 milioni in varie tranche ed era accusato di per 4-5 milioni meno di Ronaldo. Esatto, meno un terzo. Vuole fare alla romana Ronaldo. Esatto, anche Ronaldo vuole fare alla romana e vediamo, secondo me queste cose trovano sempre una soluzione, vediamo se lo condannano, vediamo quale sarà la multa e poi vediamo come si comporterà il Real Madrid. Io dico, ora come ora, vederlo andare via mi sembra complicato, anche perché poi, dico, se questa telefonata l'avessimo fatta 6 mesi fa o un anno fa, allora magari il Madrid poteva avere un interesse anche a mandar via Ronaldo, ma dopo gli ultimi 3 mesi spettacolari, probabilmente i migliori da quando è al Madrid, diventa quasi impossibile, sarebbe altamente impopolare. Beh sì, insomma, io la vedo difficile. Tra l'altro sotto elezioni. Sì, esatto, però le elezioni probabilmente non ci sarà nessun altro candidato, quindi sono elezioni un po' bulgare, vediamo se si presenta qualcuno contro Florentino Perez, per me no. Io continuo a vederla molto difficile, si tratterà come sempre di trovare un accordo, cioè qua si parla di soldi e punto, non c'è altro. Strano, tema che tra l'altro da noi in queste ore non viene dibattuto, purtroppo abbiamo finito ma io ti riconvoco immediatamente per domenica tra le 17 e le 19 perché volevamo capire se coi due spicci che resteranno al Real dopo aver pagato alla romana la multa di Cristiano Ronaldo magari si pigliano Donnarumma, oggi sulle prime di Ase Marca. Esatto, oggi. Dai, chiudiamo dicendo. Però veloce perché sennò ci tagliano. Due prime pagine a Donnarumma e due prime pagine a Verratti al Barça. Ma di fatto ci siamo tutti lucidati d'orgoglio questa mattina facendo la rassegna stampa. Ci siamo gonfiati d'orgoglio, sai. Va bene, grazie Filippo. Ciao. Alla prossima, Filippo Maria Ricci. Abbiamo finito qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Edoardo Lavezzari, che è stato in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento è domenica alle 17, anche con Carlo Genta. Ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.